Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo del mezzogiorno, un tema sempre centrale nel dibattito economico e politico del nostro paese, anche perché tra l'altro quest'anno si vota in molte città importanti del mezzogiorno. E allora vi propongo un libro che ci offre una prospettiva insolita, quella del meridione visto dai non meridionali, per la precisione da 18 intellettuali che dall'Unità d'Italia Oggi si sono posti il tema del divario tra nord e sud e del modo per ridurre questo divario. Il libro si intitola 18 voci per l'Italia Unita, è curato da Sergio Zoppi, che è uno storico dell'economia per la Svimez, ed è pubblicato dal Mulino, 448 pagine, 32 euro. Si comincia nel 1860 con una relazione sulla condizione della Sicilia, appena liberata da Garibaldi, fino alla testimonianza di Danilo Dolci, in mezzo ai due grandi protagonisti della vita culturale e politica italiana, da Gobetti e Einaudi a Rodolfo Morandi, a Vanoni, a Pastore. Ma cerchiamo di ricostruire il filo di queste voci con il curatore. Buongiorno a Sergio Zoppi. Buongiorno a lei. Sergio Zoppi, nell'introduzione a questo libro lei precisa di dare voce al meridionalismo dei non meridionali. I personaggi che lei ha scelto per questa antologia sono infatti non meridionali. Ecco, come mai questa scelta? Perché c'era già stato un grandissimo uomo del nord, del Piemonte, Umberto Zanotti Bianco, che era disceso nel mezzogiorno giovanotto, appena 19 anni, subito dopo il terremoto disastroso di Messina, di Reggio Calabria, e aveva dedicato la propria vita all'educazione dei bambini, con la costruzione di decine, di asili, di piccole biblioteche, la formazione di migliaia e migliaia di maestri. E sulla scia di Zanotti Bianco ho individuato una serie di personaggi, potevano essere molto di più, uomini nati da Roma alle Alpi che hanno dedicato, alcuni tutta la vita anche loro, altri una parte della propria vita politica, culturale, scientifica, tecnica, al mezzogiorno. Lei nel libro spiega anche di averlo preparato, diciamo, per dare uno strumento agli uomini del nord per guardare in modo diverso al mezzogiorno, ma poi aggiunge agli italiani del mezzogiorno perché si impegnino di più, sapendo far fronte ai sacrifici ancora da compiere. Ecco, che cosa resta da compiere su questa strada? Questa strada, per quanto riguarda il mezzogiorno, una capacità di autogoverno che punti soprattutto in un'azione congiunta con il governo centrale al miglioramento dell'istruzione della scuola e poi con responsabilità maggiore ancora per i meridionali alla riqualificazione radicale delle amministrazioni locali. Senza comuni, province e regioni efficienti e senza una scuola che funzioni, qualsiasi aiuto alle imprese sarebbe denaro perduto. Agli uomini del nord l'invito a riconsiderare quei loro predecessori che hanno visto il mezzogiorno come il giusto compimento dell'unità d'Italia e hanno dato un apporto ripagati allo sviluppo, alla crescita del mezzogiorno. In questa galleria ci sono anche delle figure abbastanza inconsuete, per esempio quella di Edmondo De Amicis, che troviamo fra i primi presentati nella sua antologia. Sì, Edmondo De Amicis fa un viaggio in Sicilia, è un viaggio molto felice perché accanto alla prosa elegante, sua tipica, c'è la capacità di vedere dentro le cose, di andare al di là della superficie, delle belle carrozze che passano per i viali, dei palazzi imponenti, dei bellissimi negozi di Catania e di Palermo in particolare, ma di vedere anche la miseria, di vedere anche l'incapacità in quel momento di prendere in mano il proprio destino. E quindi è un fotografo eccezionale che richiama l'attenzione su una parte dell'Italia a quel tempo addirittura sconosciuta. Un'altra testimonianza abbastanza inconsueta è quella di Carlo Emilio Gadda, del quale viene pubblicato una rivista del 1945, nella quale Gadda sembra quasi anticipare le critiche a certe letture revisionistiche sul Risorgimento che sono poi diventate di moda. Sì, è un una pagina molto bella, ironica, arguta, forse anche un po' sarcastica, dove di fronte a un personaggio del mondo letterario che propugna quasi una secessione del Sud contro le ingiustizie perpetrate dal Nord, lui richiama invece gli sforzi comuni del Mezzogiorno e del Centro-Nord, il sacrificio, il sangue, a partire dalla prima grande guerra mondiale in cui i contadini del Sud si sono uniti agli operai del Nord nel portare a compimento l'impegno, il disegno risorgimentale. E questa pagina è molto bella, molto felice, proprio del miglior Gadda. Ecco, in questi scritti lei ha scritto di aver riconosciuto un filo conduttore che definisce come il sentimento di una solidarietà nazionale intimamente sentita. A che punto siamo da questo punto di vista? Non siamo molto a buon punto. Effettivamente il Nord ha le sue colpe, ma ci sono delle colpe altrettanto gravi, se non più gravi, del Mezzogiorno. Il Mezzogiorno ha avuto un grande sforzo di solidarietà nazionale, quasi immenso, nel 1950 con l'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Non ha saputo in pieno ripagarlo. Oggi c'è la consapevolezza che di fronte alla globalizzazione del mondo l'Italia non si può permettere di stare in piccole isole. Soltanto se un'Italia forte, unita, non soltanto dal punto di vista economico, certo è determinante il successo, la capacità economica, ma ci vuole un'etica. Ci vuole un sentire comune e su questo bisogna ancora lavorare. Io spero che il mio libro possa dare un piccolo contributo al riguardo. Ce lo auguriamo. Grazie a Sergio Zoppi, curatore del libro 18 voci per l'Italia unita. Buona domenica. Grazie a lei, buona domenica. E passiamo adesso a Nord con due scritti su Milano. Il primo libro è la riproposizione delle opere forse più celebri di uno dei maggiori scrittori milanesi del Novecento, cioè Giovanni Testori. Questo volume che adesso vi propongo raccoglie il Ponte della Ghisolfa, la Gilda del MacMahon, la Maria Brasca, la Rialda, il Fabbricone. I romanzi che costituiscono il ciclo I segreti di Milano, riproposto da Feltrinelli, 794 pagine, 30 euro. Sono tutte pagine importanti, non solo per lo scandalo che suscitarono allora, ma soprattutto per la capacità di Testori di dare voce artistica alle grandi trasformazioni della metropoli negli anni 60, anni di immigrazione, di industrializzazione, di crescita, ma anche di trasformazioni epocali nelle coscienze e nella società. E di queste trasformazioni Testori fu uno dei cantori più partecipi e appassionati, come dimostrano queste pagine ancora straordinariamente attuali. Nata e vissuta da quelle parti, del Fabbricone la Redenta ricordava tutto, e lo ricordava con la precisione e la forza della sua gran memoria. Perché una volta che una cosa lei l'aveva vista o sentita, dentro, là, fissa e chiusa nella testa come in una cassaforte, è fissa e chiusa per sempre. Ecco i giorni in cui su quello che allora non era altro che un prato correva a giocare con le amiche. Ecco le domeniche in cui col padre, la madre, gli zii andava a vedere i progressi di quello che ormai era diventato l'avvenimento principale del rione. Titolo meritato del resto, trattandosi della prima casa popolare vera e propria che nel rione s'alzava a ridosso delle cascine, cosicché intorno tutti erano stati indotti a pensare che sarebbe diventato un modello, il modello anzi, per le costruzioni a venire degli operai e della gente che non era nemmen quello. Ma 35 anni dopo, eccola lì, una ruera. Va bene, l'acqua potabile e le latrine ce le avevano messe. E in proposito, lei non aveva avuto e non aveva niente da dire. Ogni appartamento era stato dotato del suo lavandino e del suo gabinetto. Ed era forse poco a quella data, 1923? Se non che i padroni, anzi il consorzio, dato che non ci stavano loro, anno per anno l'avevano lasciato andare, e andare a ramengo. Così, già alla guerra d'Abissinia, quella che il suo Andrea aveva schivato per un pelo, erano sorte lì attorno case talmente più ben fatte, e il Fabbricone s'era talmente mal ridotto, che dalla posizione preminente era sceso a quella di mezzo mezzo. Poi da quella di mezzo mezzo, con la guerra, non più dell'Abissinia, ma del mondo intero, era andato a finire all'ultima, a esser cioè, come gridavano giù dal pulpito prepi e coauditori, il refugium peccatorum della zona. Più o meno anche gli inquilini avevano seguito le sorti dei muri, delle tubature, del tetto, delle persiane, delle latrine e dell'acqua potabile. Ed erano andati in niente anche loro. Una breve storia di Milano, invece, è quella che ci presenta un noto giornalista scomparso 2 anni fa, molto affezionato a Milano, Guido Lopez, che della città fu studioso, divulgatore appassionato. Il libro si intitola Breve storia di Milano, è pubblicato da Mursi a 100 pagine, 9,90 €. In poche pagine, come avete sentito, ricche di illustrazioni, troverete qua una cronistoria della città, dal prima del 1000 fino alla riapertura della Scala l'11 maggio del 1946 con il mitico concerto di Arturo Toscanini che sembrò segnare la rinascita di Milano e di tutta l'Italia. Prima dello stacco per le informazioni sul traffico, vi ricordo che oggi ha avuto luogo a Roma la beatificazione di Giuseppe Toniolo, una delle più importanti figure del cattolicesimo sociale del nostro paese, vissuto tra il 1845 e il 1918. A Toniolo è dedicata la biografia di Ernesto Preziosi, così appunto intitolata, col sottotitolo Alle origini dell'impegno sociale e politico dei cattolici, pubblicato dalle Paoline, 316 pagine, 24 €. Toniolo fu un laico, sposato, genitore, docente universitario, economista, tra l'altro antesignano degli studi sul rapporto tra etica ed economia, e protagonista appunto dell'impegno dei cattolici nella politica e nella società. In quegli anni ai cattolici era interdetto ancora l'impegno diretto in politica, e allora ci si organizzava in leghe e associazioni che dettero vita a moltissime iniziative anche in campo economico, molte delle quali ancora esistente. E Toniolo di quel movimento fu appunto uno dei protagonisti, un protagonista preveggente e importante. Come ricorda l'autore, infatti, Toniolo, per esempio, propose una visione di Stato suppletivo, sussidiario, che anticipa, scrive appunto Preziosi, aspetti tra i più interessanti del dibattito attuale con applicazioni in campi assai diversi. Comincio a ricordare che in occasione del Salone del Libro di Torino, il 13 maggio, questa trasmissione andrà in onda in diretta dal Padiglione 2. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Tra pochi giorni festeggeremo il 1° maggio, festa del lavoro, e allora vi segnalo in questa occasione il libro di Richard Boyer ed Herbert Morais, giornalista il primo, storico il secondo, Storia del movimento operaio negli Stati Uniti, curato da Mario Maffi per Odoia, costa 24 €, 558 pagine, ed è tradotto da Vito Gallotta. Questo libro prende in esame il periodo compreso tra il 1861 e il 1955. Il 1861 è l'anno che segna la fine dello schiavitù negli Stati Uniti, quando quello che oggi chiameremmo il mercato del lavoro era completamente privo di regole. Da lì comincia una lunga rincorsa per costruire appunto delle regole dei diritti ai lavoratori americani, e il libro ripercorre appunto la storia delle conquiste sindacali negli Stati Uniti con un'ottica particolarmente militante, essendo i due autori due scrittori liberal, ed essendo stato lo stesso libro commissionato appunto nel 1955 da un sindacato americano, come ricorda nella prefazione lo scrittore Valerio Evangelisti. La storia di queste conquiste è stata una storia drammatica, segnata anche da molte tragedie, addirittura da esecuzioni capitali, e tra queste tragedie naturalmente quelli più famosi probabilmente sono rimasti gli incidenti che caratterizzarono appunto il 1° maggio del 1876, da cui trae spunto la festa che celebreremo tra qualche giorno. Fu allora infatti che i lavoratori americani organizzarono una grande manifestazione per chiedere la giornata lavorativa di 8 ore, una richiesta che la controparte padronale considerò un'insurrezione comunista della classe operaia. La giornata si svolse pacificamente, ma poi in realtà scoppiarono dei gravissimi disordini con l'esplosione di una bomba sospetta, fino a un processo che portò alcuni accusati, alcuni lavoratori americani, a essere condannati a morte. Un libro militante, dunque molto liberal, come vi dicevo, ma appassionato, anche se soffre di essere stato scritto nel segno di Roosevelt, per il quale gli autori non nascondono certo il proprio culto, e quindi con una forte connotazione ideologica che addirittura spinge i due autori a scrivere che il popolo americano all'inizio della guerra fredda sarebbe stato conscio del fatto che uno stabile accordo con l'Unione Sovietica era la base indispensabile per la pace nel futuro. Restiamo sulla storia del Novecento e vi presento due libri di due testimoni importanti del secolo scorso da un punto di vista assai simile. Il primo è di Raniero Lavalle, Quel nostro Novecento, Costituzione, Concilio e 68, Le tre rivoluzioni interrotte, pubblicato da Ponte alle Grazie, 194 pagine, 12 euro. La Valle è stato giornalista, direttore dell'Avvenire, uomo politico, parlamentare della sinistra indipendente. Il libro parte da un discorso tenuto l'anno scorso, nel quale La Valle ripercorre la storia della Chiesa dell'Italia del Novecento, arricchendolo con delle glosse, come le chiama lui, ossia delle note sui personaggi incontrati che hanno segnato la sua vita. Si parte naturalmente dal Concilio Ecumenico Vaticano II, che determinò, come scrive La Valle, uno dei cambiamenti più profondi avvenuti nel Novecento. E sul Concilio Ecumenico segnalo l'altra testimonianza, quella di un grande teologo protestante, Karl Barth, che è contenuta nel libro curato da Fulvio Ferrario e Marco Vergottini. Karl Barth e il Concilio Vaticano II, Ad Limina Apostolorum e altri scritti, è pubblicato da Claudiana, 156 pagine, 15 euro. Il grande teologo protestante fu invitato nel 1966 a dialogare a Roma con alcuni teologi che erano impegnati nel concilio e affidò ad alcuni scritti le sue osservazioni, spesso molto specifiche, su importanti documenti conciliari. E aggiunse delle domande molto precise di chiarimento o critiche, come scrive lui stesso, sui lavori del concilio. Vi propongo di ascoltare una pagina di questo libro con delle domande, con alcuni di questi quesiti che in qualche misura alimentano ancora il dibattito sul significato del concilio e anche gettano nuova luce anche sui rapporti tra il cattolicesimo e le altre chiese protestanti. 1. Le decisioni conciliari hanno un punto focale? Un centro di gravità? 2. Il Vaticano II è stato un concilio di riforma? La cosa è discussa. 3. Che cosa significa aggiornamento? Aggiornamento in base e in vista di che? 4. Si è trattato A. del rinnovamento teoretico e pratico della autocoscienza della Chiesa alla luce della rivelazione che ne costituisce il fondamento? Oppure B. del rinnovamento del suo pensiero, della sua predicazione, del suo operare oggi alla luce del mondo moderno. 5. Si è trattato di entrambi questi tipi di rinnovamento? Quale dei due è predominante? 6. Su quale di questi due tipi di rinnovamento verrà posto l'accento nello sviluppo post-conciliare? 7. I rappresentanti della maggioranza progressista del Concilio sono coscienti del rischio che si giunga, nell'ambito del cattolicesimo, a indesiderate ripetizioni degli errori commessi dal protestantesimo contemporaneo? Una pagina piuttosto dimenticata nella storia del Novecento, ma sicuramente gustosa, è quella ricostruita nel libro di Gennaro San Giuliano, vice direttore del TG1, in Scacco allo Zar, 1908-1910, Lenin a Capri, Genesi della Rivoluzione, pubblicato da Mondadori, 154 pagine, 18,50 euro. A Capri Lenin era arrivato per la prima volta il 23 aprile del 1908, atteso da Gorky, il grande poeta, che nel l'isola sarebbe rimasto 7 anni, fra il 1906 e il 1913. Lenin, per la verità, non era andato solo per vacanza, c'era infatti un gruppetto di intellettuali russi di cultura bolscevica, ma considerati assai poco ortodossi, che Lenin voleva ricondurre alla ragione. E con il principale di questo, l'economista Alexander Bogdanov, Lenin è protagonista di una famosa foto in cui i due vengono ritratti giocare a scacchi a Capri nella casa di Gorky. Lo stesso Bogdanov era quello che organizzava le rapine per finanziare il partito, e proprio di questo e dell'utilizzo dei fondi Lenin voleva parlare a Capri. Dopo un soggiorno di qualche mese, Lenin partì per tornare nel 1910. Nel frattempo, nell'isola si era aperta la scuola di Capri, quella che Lenin, scrive l'autore, riteneva una provocazione, perché gli allievi erano una trentina tra operai e studenti selezionati dai comitati di partito in Russia e partecipavano in qualità di liberi uditori alcuni universitari emigranti che vivevano a Napoli e sull'isola. Era insomma un'operazione frazionista che Lenin cercò di smontare tornando per 12 giorni a Capri nel giugno del 1910. In realtà non poteva andare contro Gorky, e quindi il viaggio fu soprattutto un'operazione pubblicitaria per dimostrare a tutto il mondo il forte legame che rimaneva fra l'agitatore comunista e il grande poeta. Furono comunque giornate di vacanza e di turismo, e di quel Lenin San Giuliano ricorda l'efficace ritratto di Curzio Malaparte, che adesso vi propongo. Curzio Malaparte, che non amava le descrizioni sdolcinate di Gorky, qualche decennio dopo si interrogerà sulla figura di Lenin e la sua vera natura. All'apparenza è un Gengis Khan proletario sbucato dal fondo dell'Asia, un bonhomme timido e violento, ma questi sono giudizi di impulso che rispondono alle chiavi della politica. A ben vedere, Vladimir Ilich appartiene piuttosto all'innumerevole famiglia dei piccoli impiegati, dei piccoli notai, degli intellettuali, degli avvocati di provincia, dei Monsieur Bovary, il cui fanatismo non ha mai cessato di sconvolgere l'Europa. Non era egli stesso un avvocato? La sua parabola, secondo lo scrittore toscano, ripercorre quella di un Cromwell o di un Robespierre, borghesi ingabbiati dal fanatismo dottrinario, che si trasformano in macchine di sangue. E a questo punto... il confettino. Rimaniamo da quelle parti ideologiche con un curioso libro di Antonio Gramsci, una favola scritta dal carcere di Turi nel 1931 e riproposta adesso da Gallucci coi disegni di Marco Lorenzetti. Si intitola Il topo e la montagna e costa 13,50 €. Un libro, o meglio una fiaba, già allora politicamente assai corretta, che addirittura si conclude con un richiamo estatico dell'autore alla Piatitletka, cioè il piano quinquennale dell'Unione Sovietica. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione Fabio Cantadori in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, unlibro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica, buon primo maggio e ci sentiamo la settimana prossima.